prima domenica di Quaresima. Lettura dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: "Se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane." Gesù gli rispose: "Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo." Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: "Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo." Gesù gli rispose: "Sta scritto, il Signore, Dio tuo, adorerai, a Lui solo renderai culto." Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: "Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, affinché essi ti custodiscano, e anche essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra." Gesù gli rispose: "È stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo." Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.